Via uno spettacolo italiano, un progetto di Niccolò Fettarappa, Nicola Borghesi, la drammaturgia di questo lavoro che sarà dal 18 al 30 marzo, Curatela Ert, Teatro Arena del Sole, Bologna. Siamo in intervista, o meglio dire conversazione a tre, per cui vi saluto entrambi, benvenuti a Radio Città Fujiko, buongiorno. Buongiorno, grazie, buongiorno. Grazie a voi. Allora, entriamo subito nella scrittura di questo lavoro molto particolare. Praticamente si sale sul carro dei vincitori e chiedo a Nicolò in che modo. Sì, diciamo, il nostro punto di partenza è stato questo, quello di immaginare, dopo tanti spettacoli di sinistra o comunque che partivano da uno sguardo critico nei confronti del presente, provare a fare uno spettacolo che invece accondiscendesse un po' alle linee di governo e che quindi, piuttosto che puntare il dito contro le cose che non vanno, cominciasse ad accettare le cose che vanno e quindi salisse sul carro dei vincitori che in questo momento appunto sono schierati dalla parte avversa rispetto a quella a cui solitamente noi ci sentiamo politicamente di appartenere, quindi fare uno spettacolo appunto di destra. Abbiamo immaginato come un regista di destra avrebbe chiamato uno spettacolo teatrale, lo avrebbe chiamato probabilmente uno spettacolo italiano, cioè uno spettacolo celebrativo l'italianità. E quindi lo spettacolo ci interroghiamo sia sul concetto di destra, sul concetto su che cos'è la destra dentro di noi, sui neonazionalismi, sul concetto di patria e sul concetto anche di italianità. Nicola, quanta fatica per tutto ciò? Chiedo a Nicola Borghesi. Abbastanza. È stato un percorso anche faticoso perché appunto una cosa è indicare un fenomeno, una cosa è cercare di entrarne nell'ottica e soprattutto c'è una parte molto divertente che è la parte più ludica, no? Perché è anche un gioco entrare nel punto di vista di qualcun altro, soprattutto un punto di vista che è, come dire, distante dal tuo. Però appunto c'è una parte dello spettacolo nella quale siamo andati come esercizio di scrittura di tirare fuori da noi stessi delle cose di destra, cioè che cosa c'è già di destra dentro di noi. E quindi Niccolò è un lavoro anche che parla in maniera introspettiva, non solo con il pubblico ma anche con gli stessi autori. Sì, sicuramente, perché come ti dicevo appunto all'inizio, noi abbiamo provato a scrivere uno spettacolo sulla destra all'inizio. Però il fatto è che la destra è capacissima di parlare di se stessa, quindi non ha bisogno di qualcuno che parli al posto suo, soprattutto ha già tutti i microfoni puntati, quindi abbiamo fatto un lavoro diverso, cioè abbiamo messo in discussione noi stessi come autori, indagando quelle che erano le radici della destra anche dentro di noi, perché una delle tesi dello spettacolo è che se la destra ha vinto è perché noi non siamo sufficientemente di sinistra. Giusto, condivido questa affermazione e soprattutto ci sono tanti aspetti un po' particolari, ma non è il momento di approfondire. Dirli, lo faremo. Per quanto riguarda il palcoscenico, invece, Nicola, cosa puoi, senza svelare, però anticipare? Allora, diciamo, un allestimento molto semplice, molto sobrio. In scena ci siamo io, Nicolò e una terza figura che è in continuo dialogo con noi, una figura che, come dire, ci tutora, ci indica la strada, ci indica la via, una sorta di nostro Virgilio che ci guida dentro il mondo della destra. Ci... Non stiamo dicendo che la destra sia l'inferno, però. No, assolutamente. Io poi va anche in paradiso. Portare in giro. In paradiso ci va Beatrice. Hai ragione. In purgatorio, però ci va pure. Che brutta figura che ho fatto, hai ragione. quindi c'è quest'altro personaggio che ci guida e che è in continuo dialogo con noi. Certo, allora da quel che poi ho inteso in maniera, non so, certo ironica, certo un po' amara, c'è anche da sorridere. Sì, diciamo che è uno proprio dei nostri desideri, devo dire mio in particolare, perché Nicolò fa sempre degli spettacoli che fanno ridere, mentre invece nei nostri spettacoli sì, c'è un po' di ironia, ma spesso sono anche insomma, un po' pesi, anche per i temi trattati, invece questo spettacolo io mi sono concesso molto di indulgere a una parte di me che non è, secondo me, abbastanza, che è quella in cui si ride. Diciamo che però quello che abbiamo fatto, cioè, è una risata comunque sempre soppesata. Non voglio dire risata amara, perché mi sembra un'etichetta un po' abusata. Però comunque è una risata che, come posso dire, non è mai fine a se stessa, ecco. Che porta a motivo di riflessione, sì, come invece spesso ribadisco io per determinati spettacoli. Come uno spettacolo italiano, dal 18 al 30 marzo, Sala Thierry Salmoni, in seguito poi do i dettagli precisi per gli orari, Teatro Arena del Sole. Io ringrazio tantissimo gli autori del progetto, Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi qua al telefono con noi, e avremo modo di risentirci. Intanto grazie per questo last minute di anticipazione e buona giornata. A te, grazie di nuovo. Ciao. Buona giornata.